La piccola casa nei grandi boschi di Laura Ingalls Wilder, Arnoldo Mondadori editore, traduzione non meglio specificata di MS e SS. Capitolo primo. La piccola casa nei grandi boschi. C'era una volta, molti anni fa, una bambina che viveva nei grandi boschi del Wisconsin in una casetta fatta di tronchi. Tutt'attorno alla casetta si ergevano gli enormi alberi neri dei grandi boschi e al di là di quegli alberi ce n'erano altri e altri ancora. Un uomo poteva camminare verso nord per un giorno intero o per una settimana o per un mese senza vedere altro che bosco. Non vi erano case, né strade, né abitanti, soltanto alberi e animali selvaggi che tra gli alberi avevano le loro tane. Nei grandi boschi vivevano lupi, orsi ed enormi gatti selvatici. Accanto ai fiumi si trovavano topi muschiati, visoni e lontre. Le volpi avevano le loro tane sulle colline e i cervi vagavano dappertutto. A destra e a sinistra della casetta, per miglia e miglia di bosco, c'erano soltanto poche capanne sperdute e solo alcune piccole case di tronchi si stagliavano in lontananza sul confine dei grandi boschi, ma per quel che ne sapeva la bambina, esisteva solo la sua casetta dove lei viveva con la mamma, il papà, la sorella Mary e una sorellina più piccola, Carrie. Una pista per i carri passava lì davanti e si perdeva serpeggiando tra gli alberi dove vivevano gli animali selvatici, ma la bambina non sapeva fin dove arrivasse. La bambina si chiamava Laura. La notte Laura giaceva sveglia nel suo lettino e tendeva le orecchie, ma udiva soltanto il rumore degli alberi che sussurravano. A volte, lontano, lontano, nell'oscurità, un lupo ululava, poi sembrava venire più vicino e ululava di nuovo. Quell'ululato era spaventoso e Laura sapeva che i lupi mangiano le bambine, ma si sentiva al sicuro tra le solide pareti di tronchi. Il fucile di suo padre era appeso accanto alla porta e il buon vecchio Jack, il bulldog pezzato, ci stava sdraiato accanto a fare la guardia. Papà diceva: "Vai a dormire, Laura, Jack non lascerà entrare i lupi." Così Laura si rannicchiava sotto le coperte, ben vicina a Mary, sua sorella, e si addormentava. Una sera suo padre la tolse dal letto e la portò accanto alla finestra perché potesse vedere i lupi. Erano due e se ne stavano di fronte alla casa. Parevano grandi cani spelacchiati, puntavano il naso verso la grande luna lucente e ululavano, ululavano. Jack camminava avanti e indietro sulla porta, ringhiando, aveva il pelo dritto sulla schiena e mostrava i denti ai lupi, che continuavano a ululare, ma non potevano entrare in casa. La casa era molto comoda. Di sopra c'era un grande solaio ed era bellissimo andarci a giocare quando la pioggia batteva sul tetto. A pian terreno c'erano una piccola camera da letto e una stanza grande. La piccola camera da letto aveva una finestra chiusa da un'imposta di legno. La stanza grande aveva due finestre con i vetri e due porte, una sul davanti e una sul di dietro. Tutt'attorno alla casa si alzava uno steccato per tenere lontani gli orsi e i cervi. Nel cortile davanti alla casa sorgevano due enormi, bellissime querce. Ogni mattina, appena sveglia, Laura correva alla finestra per guardare fuori e un giorno vide che dai rami di ciascuna delle due querce penzolava un cervo morto. Il babbo aveva sparato ai cervi la sera precedente e Laura dormiva già quando lui li aveva portati a casa e li aveva appesi ai rami degli alberi perché i lupi non se li mangiassero. Quel giorno papà, mamma, Laura e Mary cenarono con la cacciagione fresca. Era così buona che Laura avrebbe voluto mangiarla tutta, ma una grande parte della carne doveva essere salata, affumicata e riposta per l'inverno che stava arrivando. I giorni si facevano più corti e i fiori di gelo si arrampicavano sui vetri delle finestre durante la notte. Presto sarebbe caduta la neve. Allora candide bufere avrebbero quasi sepolto la casetta e i fiumi e i laghi sarebbero gelati. Con quel tempaccio, papà non era mai sicuro di poter sparare alla selvaggina per mangiar carne. Gli orsi si nascondevano nelle loro tane, dove dormivano sodo per tutto l'inverno. Gli scoiattoli si arrotolavano nei loro nidi nel cavo degli alberi, con le folte code ripiegate, attorno al naso. Conigli e cervi scappavano impauriti e anche se papà riusciva a uccidere un cervo, lo trovava magro e denutrito, non più bello grasso come in autunno. Capitava che andasse a caccia tutto il giorno, nel freddo pungente, tra i grandi alberi coperti di neve, e rincasasse la sera senza portare nulla da mangiare per la mamma, per Mary e per Laura. Ecco perché bisognava fare provvista di cibo prima che giungesse l'inverno. Papà scuoiò i cervi con molta cura e ne salò le pelli per farne poi del morbido cuoio. Infine tagliò la carne a pezzi e salò anche quella. In fondo al cortile c'era un grande tronco cavo e papà ci aveva conficcato molti chiodi e ci aveva messo sopra una tettoia di legno con una porticina su un lato. Dal pezzo di legno scavato dall'albero aveva ricavato un battente che aveva fissato al tronco con strisce di cuoio, ottenendo così una porticina ancora tutta ricoperta di corteccia. Dopo aver lasciato la carne sotto sale per parecchi giorni, papà boccò ciascun pezzo di carne e vi infilò una cordicella. Laura lo guardava mentre appendeva la carne ai chiodi nel tronco cavo. Papà infilò il braccio nella porticina e appese i pezzi di carne ai chiodi fin dove riuscì ad arrivare. Poi appoggiò una scala al tronco. Si arrampicò fin su, alzò il tettuccio di legno da un lato e si sporse giù ad appendere altri pezzi di carne sui chiodi più alti. Quindi rimise a posto il tetto, scese e disse a Laura: "Corri vicino al tagliere e prendimi delle bacche di alloro belle, tenere e fresche." Laura corse al cespuglio di alloro che stava accanto al ceppo dove papà tagliava la legna e si riempì il grembiule di bacche fresche e profumate. Papà, nel frattempo, accese un bel fuoco sotto il tronco con pezzi di corteccia e moschio e ci mise sopra le bacche che bruciavano piano e facevano fitte volute di fumo. Poi chiuse la porticina e un po' di fumo uscì dal tetto, ma quasi tutto restò dentro e affumicò la carne. "Non c'è nulla di meglio del buon fumo del noce", disse il babbo. "Farà dell'ottima carne affumicata che si manterrà ovunque, qualsiasi tempo faccia." Poi prese il fucile e con la scure appoggiata a una spalla andò alla radura a tagliare ancora qualche albero. Laura e la mamma accudirono al fuoco per diversi giorni. Non appena il fumo cessava di uscire dalle fessure, Laura andava subito a prendere degli altri rami piccoli di noce e la mamma li metteva sul fuoco che ardeva sotto la carne. C'era sempre un odore di fumo nel cortile e quando si apriva la porticina dell'albero cavo ne usciva un forte profumo di legno bruciato e di carne. A un certo punto papà disse che la carne era stata affumicata abbastanza. Allora si lasciò spegnere il fuoco e papà tirò fuori dall'albero cavo tutte le strisce e tutti i pezzi di carne. La mamma avvolse con cura nella carta ogni pezzo e poi li appese tutti in solaio, dove sarebbero stati al sicuro e all'asciutto. Una mattina il babbo andò via col carro e i cavalli e rincasò la sera col carro pieno di pesce. Era stracolmo di pesci. Alcuni erano grandi quanto Laura. Papà era stato al lago Pepin e li aveva presi tutti con la rete. Per Laura e Mary la mamma tagliò fette di bianco pesce senza una sola spina. Se ne fece un vero banchetto di quel buon pesce fresco. Quello che non si mangiò, fresco, venne salato e messo nei barili per l'inverno. Papà aveva un maiale che aveva scorrazzato selvatico nei grandi boschi, vivendo di ghiande, noci e radici. Ora che papà l'aveva catturato, stava in un porcile fatto di tronchi a ingrassare. Sarebbe stato macellato non appena avesse fatto abbastanza freddo perché la carne restasse gelata. Una volta Laura si svegliò nel cuore della notte e sentì strillare il maiale. Papà balzò fuori dal letto, afferrò il fucile dalla parete e corse fuori e Laura sentì il fucile sparare una volta e due volte. Al suo ritorno, papà raccontò cosa era accaduto. Aveva visto un grande orso fermo, ritto accanto al porcile. L'orso allungava le zampe dentro il porcile per ghermire il maiale e il maiale scappava e gridava. Papà, che aveva visto tutto al lume delle stelle, era stato pronto a sparare. Nella penombra, però, e con tutta quella fretta, aveva mancato l'orso. L'orso era scappato nei boschi senza neanche un graffio. A Laura dispiacque che il babbo non avesse colpito l'orso. Le piaceva tanto la carne di orso. La rimpiangeva anche papà, che però disse: "Beh, se non altro, ho salvato il prosciutto." Gli ortaggi, dietro la piccola casa, erano cresciuti tutta l'estate. L'orto era così vicino alla casa che i cervi non saltavano dentro a mangiarsi le verdure durante il giorno, mentre di notte ci pensava Jack a tenerli lontani. Qualche volta al mattino si vedevano impronte di zoccoli tra le carote e i cavoli, ma lì c'erano anche le impronte di Jack, segno che il cervo era dovuto fuggire di corsa. A tempo debito, patate, carote, rape, barbabietole e cavoli vennero raccolti e messi al riparo in cantina, perché intanto erano sopraggiunte le nottate di gelo. Delle cipolle si fecero lunghe file intrecciate a un'estremità e poi si appesero in solaio vicino alle ghirlande dei peperoncini rossi. Le zucche, invece, vennero ordinate in grandi pile gialle, verdi e arancioni negli angoli del solaio. I barili del pesce salato si trovavano nella dispensa e sugli scaffali erano accatastati i formaggi gialli. Poi un giorno arrivò a cavallo dai grandi boschi lo zio Harry. Veniva ad aiutare papà a macellare. Il coltellone da macellaio della mamma era già affilato e lo zio Harry aveva portato il coltello da macello della zia Polly. Vicino al porcile, papà e zio Harry accesero un falò e vi fecero scaldare sopra un gran pentolone di acqua. Quando l'acqua bollì, andarono a uccidere il maiale. Allora Laura scappò a nascondere la testa nel letto e si tappò le orecchie con le dita per non udire le grida del maiale. Non sente alcun male, Laura, aveva detto il babbo, facciamo in un attimo. Ma lei non aveva voluto restare a sentirlo strillare. Dopo un po' si tolse, esitando, un dito da un orecchio e ascoltò. Il maiale non gridava più. Da quel momento in poi, però, il giorno della macellazione era davvero un bel divertimento. Era una giornata movimentata, con una quantità di cose da vedere e da sbrigare. Zio Harry e papà erano contenti. A pranzo ci sarebbero state le costolette di maiale e il babbo aveva promesso a Laura e a Mary la vescica e la coda del maiale. Non appena fu ucciso, papà e zio Harry lo alzarono di peso, lo tuffarono nell'acqua bollente e ve lo lasciarono fino a che fu ben scottato. Allora lo stesero su un asse e lo grattarono con i coltelli, così gli vennero via tutte le setole. Poi appesero il maiale a un albero, gli tirarono fuori l'interiore e lo lasciarono lì appeso a raffreddare. Quando si fu raffreddato, lo tirarono giù e lo tagliarono. C'erano i prosciutti alle spalle, la carne dei fianchi e le costolette e la pancia, e c'erano poi il cuore, il fegato e la lingua e la testa per farne le soppressate. E c'era anche la grande padella piena di pezzettini di carne per farne i salami. La carne venne disposta su un asse nella capanna dietro casa e ogni pezzo fu cosparso di sale. I prosciutti alle spalle vennero messi a insaporire nella salamoia, perché poi si dovevano affumicare nel troncocavo, come la cacciagione. Non c'è prosciutto migliore di quello esposto al fumo di noce, disse papà. Stava gonfiando la vescica. La fece diventare un palloncino bianco. Legò l'apertura con una fettuccia e poi lo diede a Mary e a Laura per giocarci. Potevano buttarlo in aria e lanciarselo a manate. Altrimenti lo si faceva saltellare sul terreno e lo si poteva calciare. Ma quello che divertì le bambine più del pallone fu la coda del maiale. Il babbo la spellò con cura e nell'estremità più grossa infilò un bastoncello appuntito. La mamma aprì lo sportello della cucina e ne tirò fuori i carboni ardenti e li mise sulla griglia del focolare. Allora Laura e Mary a turno tennero sui carboni accesi la coda del maiale. Sfrigolava e friggeva e le code di grasso che ne colavano prendevano fuoco sui carboni. La mamma cosparse la coda di sale. Alle bambine si arrossarono la faccia e le mani per il calore e Laura si scottò anche un dito. Ma era tanto il divertimento che non se ne curò neppure. Fare arrostire la coda del maiale era un tale divertimento che faceva fatica a rispettare il suo turno e a non pretendere di fare anche quello di Mary. Finalmente la coda fu pronta. Era tutta ben rosolata e mandava un profumino appetitosissimo. La portarono in cortile e cominciarono ad assaggiarla prima che si fosse raffreddata, scottandosi la lingua. Mangiarono fino all'ultimo pezzettino la carne intorno alle ossa e poi diedero le ossa a Jack, e questa fu la fine della coda del maiale. Non ce ne sarebbe stata un'altra fino all'anno 21. Zio Harry andò a casa sua dopo pranzo E papà andò al lavoro nei grandi boschi. Per Laura, Mary e la mamma, invece, il giorno della macellazione era appena cominciato. Per la mamma c'era ancora molto da fare e Laura e Mary l'aiutarono. Per tutto quel giorno e per il seguente, la mamma fu occupata a fondere il lardo in grandi pentole di ferro sulla cucina. Laura e Mary portavano la legna e badavano al fuoco. Doveva essere vivo, ma non troppo, perché altrimenti il lardo si sarebbe bruciato. Le grandi pentole schiumavano e bollivano, ma non dovevano far fumo. Ogni tanto la mamma tirava fuori i ciccioli bruni, li deponeva in un panno, ne spremeva fino all'ultima goccia il grasso e poi li riponeva. Le sarebbero serviti in seguito per condire il pasticcio. I ciccioli erano buonissimi da mangiare, ma Laura e Mary ne poterono avere soltanto un pezzettino da assaggiare. Erano troppo indigesti per le bambine, disse la mamma. Grattò con cura e ripulì per bene la testa del maiale e poi la fece bollire fino a che tutta la carne si staccò dalle ossa. Tagliò a fettine sottilissime nel catino di legno la carne, la condì col sale, il pepe e le spezie, poi vi versò il brodo, mescolò bene e mise il tutto da parte in un recipiente a raffreddare. Freddo lo si sarebbe tagliato a fette. Era quella la soppressata. I pezzettini di carne sottili e grassi che erano stati tagliati via dai pezzi più grossi vennero sminuzzati e sminuzzati fino a che furono tritati finissimi. La mamma condì il tutto col sale, il pepe e qualche foglia di salvia dell'orto essiccata, poi rimestò e impastò con le mani fino a che si fu tutto ben mescolato e fece tante palle con l'impasto. Mise quelle palle in una gran padella nel capanno, dove si sarebbero gelate e sarebbero state buone da mangiare tutto l'inverno. E questo era il salame. Alla fine del giorno della macellazione c'erano i salami e le soppressate, i grandi vasi di lardo fuso e il barile col maiale salato, fuori nella capanna, mentre dentro in solaio pendevano i prosciutti, le spalle e i prosciutti affumicati. La casetta era colma di cose buone da mangiare, messe via per il lungo inverno. La dispensa e gli scaffali e la cantina erano pieni e altrettanto colmo era il solaio. Laura e Mary erano costrette a giocare in casa ora, perché fuori faceva freddo e le foglie brune cadevano dagli alberi. Nella stufa sulla quale si cucinava, il fuoco non si spegneva mai. Di notte papà copriva il fuoco con la cenere, in maniera che i carboni fossero ancora accesi la mattina dopo. Il solaio era un posticino bellissimo per giocarci. Le grandi zucche tonde e colorate diventavano magnifiche sedie e stupendi tavoli. In alto pendevano i peperoncini rossi e le cipolle. I prosciutti e la cacciagione affumicata erano appesi nelle carte che li avvolgevano e i mazzi delle erbe secche, quelle saporite per cucinare e quelle amare per le medicine, davano a tutto l'ambiente un odore aromatico e pungente. Spesso il vento che ululava di fuori dava un senso di freddo e di solitudine. In solaio, però, Laura e Mary giocavano alla casa con le loro zucche e tutto era intimo e confortevole. Mary era più grande di Laura e aveva una bambola di pezza che si chiamava Nettie. Laura aveva soltanto una pannocchia avvolta da un fazzoletto, che era pur sempre una buona bambola. Si chiamava Susan e non era colpa di Susan se era soltanto una pannocchia. Qualche volta Mary lasciava prendere in braccio Nettie a Laura, ma Laura lo faceva soltanto quando Susan non la vedeva. I più bei momenti erano quelli della sera. Dopo cena, il babbo andava a prendere le trappole e le ungeva vicino al fuoco, le ripuliva fino a che luccicavano e poi ungeva i perni delle ganasce e le molle con una piuma intinta nel grasso dorso. C'erano trappole piccole, medie e grandi trappole per gli orsi con dei denti tali alle ganasce che a sentire papà potevano rompere una gamba a un uomo se ci capitava dentro. Mentre dava il grasso alle trappole, papà raccontava a Laura e a Mary delle storielle serie o allegre e dopo suonava il violino. Porte e finestre erano ben chiuse e alle fessure fra i telai e i vetri delle finestre c'era della stoffa perché non entrasse il freddo. Però Black Susan, la gatta, andava e veniva a suo piacimento, giorno e notte, passando per lo sportellino mobile aperto per lei ai piedi dell'uscio d'ingresso. Certo, Ci passava sempre alla svelta, in maniera che ricadendole dietro nel chiudersi lo sportellino non le schiacciasse la coda. Una sera, mentre ingrassava le trappole, papà guardò Black Susan che rientrava e disse: «Una volta un uomo aveva due gatti, uno grande e uno piccolo». Laura e Mary corsero ad appoggiarsi alle sue ginocchia per ascoltare il resto del racconto. «Aveva due gatti», ripeté il babbo, «uno grande e uno piccolo». E allora prima fece uno sportello grande in fondo alla porta per il gatto grande e poi ne fece uno piccolo per il gatto piccolo. E qui il babbo si fermò. «Ma il gatto piccolo non poteva», cominciò Mary. «No, perché quello grande non lo lasciava», interruppe Laura. «Laura, questa è maleducazione, non bisogna mai interrompere», disse papà. «Vedo in ogni modo», continuò poi, «che tutte e due avete più buon senso di quell'uomo che aveva fatto due sportelli nel suo uscio». Poi ripose le trappole, tirò fuori dalla custodia il violino e si mise a suonare. E quello era il momento più bello.